guardiamo il dito o guardiamo la luna? Il dito è, oddio, hanno intercettato il Presidente della Repubblica, che cosa fare quando finisce intercettato sul telefono di un altro il Presidente che è immune, o prima di lui il capo del governo o un parlamentare, per intercettare i quali è necessario comunque l'autorizzazione del Parlamento. La luna è che un giorno un privato cittadino molto potente, molto amico di Napolitano, e cioè Nicola Mancino, si rivolge al Quirinale per ottenere favori indebiti. Favori che, se li chiedessimo noi comuni cittadini, ci vedremmo staccare il telefono del centralino del Quirinale o non riceveremmo nemmeno risposta dal centralino del Quirinale. Figurarsi riuscire ad arrivare al consigliere giuridico di Napolitano e poi a Napolitano in persona per ottenere interventi indebiti, interferenze su un'indagine giudiziaria in corso che non riguarda furti di bestiame o, che ne so, balconi abusivi, razzi abusivi, ma riguarda la trattativa fra lo Stato e la mafia. Questa è la luna. Che cosa succede quando Mancino, privato cittadino, chiama il Quirinale per ottenere che intervenga e interferisca in quell'indagine per indirizzarla su una via morbida e devitalizzarla, con pressioni del Quirinale, lettere ufficiali ma segrete del Quirinale al Procuratore Generale della Cassazione e convocazioni del Procuratore Nazionale Antimafia Grasso affinché in qualche modo striglino e imbriglino la Procura di Palermo, succede che il Quirinale, invece di staccare il telefono a Mancino e di dirgli rivolgiti nelle sedi competenti se hai qualche lamentela, ci sono tutti gli strumenti per farti ascoltare, vanno avanti senza averne alcun potere, perché il Quirinale non ha alcun potere di coordinare o di indirizzare o di strigliare, così, con telefonate tra il lusco e il brusco, magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Questo è il punto.